4 mattino. Buongiorno Simone, basta fare il turista occasionale passando per la Valtellina per capire che è una semplice camera a gas. Ciao Spezia, quante palle con questi blocchi della strada, che assolutamente non è colpa solo degli automobilisti, ma noi dobbiamo andare a lavorare, Euro 5 non va più, che chiudono le autostrade, che non passino più i camion, le merci, una cosa o l'altra, che non girano più gli aerei. Insomma, lo smog vi scalda. 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp, anche audio. Oddio, mi sembra esagerato chiudere tutto. So che era una provocazione, per carità, lo so. Siamo alla seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:20. Siamo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook, ci trovate su Instagram e su Twitter come sempre e anche via mail a 24mattino@radio24.it per le vostre idee, le vostre riflessioni, le critiche alla trasmissione se ne avete, anche i complimenti se ve ne scappa qualcuno, che non è che ci dispiacciano. E come sempre iniziamo a dare un'occhiata soprattutto ai titoli di apertura, ai titoli principali. Il Sole 24 Ore, Libia, Putin e Erdogan chiedono la tregua, gaffe italiana su Haftar, questo è il titolo, e a centro pagina Trump che è pronto al dialogo con l'Iran, il calo del petrolio, il rimbalzo delle borse e quindi questo allentarsi della tensione internazionale quantomeno intorno all'Iran. Sceglie il taglio dedicato a Putin e Erdogan anche la stampa. Libia, Putin e Erdogan beffano l'Unione Europea. E a centro pagina un'intervista a Pasquale Tridico, il presidente dell'INPS, che nota insomma quella che ci pare un'ovvietà, insomma. Non abbiamo sconfitto la povertà. Corriere della Sera, Trump all'Iran, nuovo accordo è il titolo principale, e poi Conte che vede solo Haftar, Sarraj diserta, anche qua si parla di una gaffe diplomatica sul conflitto in Libia. La Repubblica, Trump, finiamola qui. Haftar a Roma, prove di tregua, è la lettura del Messaggero. Il Fatto Quotidiano, Conte si muove e Macron lo boicotta. Il Manifesto, Conte senza l'oste. Il riferimento è appunto al mancato arrivo di Sarraj. Il Quotidiano Nazionale, Trump e l'Iran, una guerra per finta. I più duri su questa vicenda sono Il Giornale, Dilettanti senza frontiere è il titolo. E La Verità, anche il premier di Tripoli prende a ceffoni Giuseppi. Avvenire parla di tregue armate, Libero di prove tecniche di guerra, con i soldati italiani tra due fuochi. Iniziamo come sempre da qualcosa di un po' diverso, poi verremo a tutta la parte centrale della rassegna stampa che terrà conto anche di questa lunga e complicata intervista. Beh, non vi abbiamo dato l'apertura perché come sapete i titoli del Foglio sono sempre un po' strani, però vi daremo conto anche di questa intervista, devo dire la verità, piuttosto complicata, di Claudio Cerasa con che è il direttore del Foglio, con il presidente del Consiglio Conte. Piuttosto complicata perché, insomma, da quel che leggiamo è stato costretto a fare le stesse domande 3 o 4 volte per ottenere una risposta un po' più tosta, un po' più approfondita, per così dire. Però, come si diceva, iniziamo da qualcos'altro, da qualche altro taglio, a partire dalle questioni che hanno a che fare con Roma. Roma e i dipendenti pubblici. Il tema, insomma, la mette giù dura Libero. A Roma non ci sono più spazzini e la Raggi assume 895 impiegati. La mette giù diversamente, un po' più freddamente, il Messaggero, che parla di 2000 nuovi assunti per il comune di Roma. In arrivo vigili, dietisti e geologi. Gli innesti saranno entro il 2022 attraverso un maxi concorso e lo scorrimento delle graduatorie. Insomma, si avvicina il momento di nuove assunzioni per il comune di Roma. 800 vigili in servizio in più in strada, almeno 400 tra rete, altrettanti nuovi funzionari da mandare soprattutto nei municipi, seguendo il trend registrato nel 2019 che ha visto il personale incrementare per il 65% proprio negli uffici delle ex circoscrizioni, racconta Francesco Pacifico a pagina 35. Annuncia l'assessore al personale Antonio De Santis: presto lanceremo nuovi bandi di concorso, assunzioni che non saranno sufficienti, viene detto, a riequilibrare la consistenza degli organici dirigenziali, considerato il numero delle cessazioni attese per il prossimo triennio, e quindi arriveranno evidentemente nuove assunzioni. E un po' velenosamente di taglio basso, Lorenzo De Cicco firma un pezzo nel quale, intitolato proprio così, «L'ultima chiamata prima del voto». E il monte salari sfiora, indovinate un po', il 1 miliardo di euro. Roma spende 1 miliardo di euro all'anno per gli stipendi del personale. Nel 2015 la spesa per il personale del Campidoglio, e parliamo solo dei contratti a tempo indeterminato, ammontava a 900 milioni di euro, 906 milioni di euro. Nel 2018, l'ultimo dato disponibile diffuso dal comune, il costo si è gonfiato di quasi 100 milioni di euro, arrivando a quota 996 milioni. E quindi siamo a ridosso del 1 miliardo di euro di spese del personale, solamente per il personale a tempo indeterminato del comune di Roma. Dal 2016 oggi sono stati assunti circa 5.000 dipendenti, significa che è stato ricambiato oltre il 25% del personale, e ora nell'ultimo scampolo di mandato la giunta di Virginia Raggi è pronta alla grande infornata con vista, dice De Cicco, sulle elezioni, perché come sappiamo le assunzioni poi facilmente si traducono in voti. A proposito di Roma, il Messaggero lo riporta in prima pagina e poi ne ha un pezzo a pagina 13, ha a che fare con la strigliata del ministro Luciana Lamorgese ai vigili di Roma. Vigili di Roma che troppo poco spesso indossano la divisa. Il ministro dell'Interno dice: l'uniforme in strada dà più sicurezza e i romani denunciano i reati. Gli agenti sono spesso in strada con jeans, felpa e fratino. Cosa succede? Che appunto in un convegno ieri al quale era presente la ministra Lamorgese ha attribuito a questo tema una certa rilevanza. Il dress code dei pizzardoni, racconta sempre Lorenzo De Cicco, è un vecchio tema nella capitale. Il comandante attuale Antonio Di Maggio, nominato dalla sindaca Virginia Raggi a metà marzo del 2018, appena approdato sulla tolda di comando, provò subito a mettere al bando i giubbini catari frangenti, modello automobilista incidentato, indossati da molti caschi bianchi sopra le t-shirt o i maglioni, indossati appunto sia per questione di forma, scritto nella lettera di insediamento, sia per ragioni di efficacia. Peccato che al solito i sindacati si siano messi in mezzo. Negli ultimi 2 anni più volte abbiano spedito al comando lettere di protesta a raffica, con le motivazioni più disparate, chi lamentando la scomodità degli armadietti per cambiarsi, chi rimarcando il fondamentale porto degli abiti civili per inseguire gli ambulanti senza licenza. Qualche agente ha rivelato ai superiori, con un po' di imbarazzo, di non entrare più nelle vecchie divise per via dei chili di troppo. E così molti vigili romani girano senza divise e la ministra Lamorgese gli dice: ragazzi, dovete mettervele. Molte cronache arrivano sul fronte dei migranti in queste ore. Partirei da La Verità, che ha una notizia che non troviamo da altre parti e ha a che fare con un'inchiesta della Procura di Potenza. Questa inchiesta ha a che fare con un centro di permanenza, quello di Palazzo San Gervasio, centro di permanenza per il rimpatrio al confine tra la Basilicata e la Puglia, per il quale è arrivata una denuncia sulla quale i magistrati della Procura di Potenza stanno indagando. L'ipotesi è che i migranti vengano sedati e picchiati all'interno di questo centro di permanenza. È quello che stanno cercando di accertare i magistrati potentini, racconta Fabio Amendolara appunto sulla Verità a pagina 7. A settembre hanno disposto un'irruzione nel centro di permanenza per il rimpatrio, hanno sequestrato alcuni farmaci indicati come materiale pertinente al reato. Insomma, i sedativi che sarebbero stati usati per tenere buoni gli immigrati da espellere. Al momento si stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di sicurezza, perché in aggiunta a tutto questo si apprende che al momento dell'ingresso nel CPR le telecamere degli smartphone, per non permettere le riprese di quanto avveniva all'interno del centro, sarebbero state danneggiate dagli operatori con un trapano che a questo punto è stato anche sequestrato dalla procura per cercare eventuali prove. Ultimo punto del decreto di perquisizione: la droga, perché viene ipotizzata anche l'introduzione nel centro di sostanze stupefacenti del tipo cannabis e oppiacei, che però almeno per ora non sono state trovate. Farà discutere questa inchiesta della procura di Potenza, così come faranno discutere le parole del procuratore che del procuratore di Palmi, Ottavio Sferlazza, che è l'uomo che ha condotto e che ha guidato l'inchiesta che ha portato ieri all'arresto di tutta una serie di persone per caporalato, 13 caporali africani e 7 imprenditori calabresi, anche grossi, il sequestro di 3 aziende agricole. Ed è una storia questa che arriva da Gioia Tauro e che arriva proprio nelle ore, lo abbiamo raccontato ieri o l'altro ieri in rassegna stampa, nelle ore nelle quali, l'altro ieri per essere esatti, nelle quali si ricordavano i 10 anni dalla rivolta di Rosarno, che riporta all'attenzione quella che è la vita dei braccianti africani che lavorano nelle campagne, in particolare in Calabria ma anche in Puglia e in altri luoghi. Faranno discutere nelle parole del procuratore di Palmi Sferlazza, perché dice che c'è l'amarezza per il fatto che ancora una volta la magistratura è chiamata a una funzione di supplenza. Abbiamo interrotto un'attività criminale assicurando giustizia a persone alle quali era stato negato il diritto ad avere diritti e in particolare il diritto di affrancarsi dal bisogno. Volete una misura di che cosa succedeva in queste campagne? Ebbene, braccianti costretti a lavorare 7 giorni su 7 per 10-12 ore senza alcun dispositivo di protezione e con ogni tempo. Anche se piove, se diluvia, devono andare a lavorare, si è sentito in un'intercettazione. La paga giornaliera? 1 euro a cassetta di frutta raccolta, comunque non superiore a 2 euro per ogni ora di lavoro. Così 25-30 euro al giorno, di cui 6 da consegnare al caporale e 7 per non chiari contributi. E qualcuno si è ribellato, un senegalese, un cittadino senegalese, picchiato e ferito con un forcone solo perché aveva chiesto quanto pattuito con il caporale, e dunque da là è scattata questa inchiesta. Questione dei migranti che ci porta a tutto un sistema di accoglienze in ginocchio, come racconta Alessandra Ziniti sulla Repubblica a pagina 16. Le persone ospitate in Italia al 31 dicembre 2019 sono 91.000. Ma che cosa succede? Gli effetti del decreto sicurezza, con il taglio delle spese per ospite e lo stop di fatto ai programmi di integrazione, stanno bloccando completamente questo sistema di accoglienza, e per cui chi se ne occupa non partecipa più ai bandi, e questo lo trovate appunto sulla Repubblica pagina 16. È parzialmente correlato, e vediamo se riusciamo a recuperarlo da qualche parte, parzialmente correlato a questo tema, al tema appunto dell'immigrazione, c'è il racconto che troviamo sempre sul quotidiano La Repubblica a proposito di quella che è considerata la coordinatrice delle sardine in Calabria. Cosa è successo? Le sardine, lo sapete, hanno fatto un'iniziativa insieme all'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Ma cosa è successo? Che la coordinatrice, Jasmine Cristallo, 38 anni, il sindaco del paese, Antonio Trifoli, ha diffuso sui social tutti i suoi dati, numero di telefono, indirizzo e un'email che lei aveva inviato all'ente. Morale, si è trovata sommersa da mail, minacce, accuse, minacce di stupro. Il sindaco di Riace ha reso la mia vita un incubo, dice, adesso deve dimettersi. Una pausa, ci ritroviamo subito dopo, parleremo ovviamente di Libia, di Iran e anche con qualche elemento di politica. 24 mattino. Ed eccoci di nuovo alle 7.38 minuti, sempre 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp. Oh, occhio a questo pezzo di taglio basso sulla stampa, pagina 10, firmato da Jacopo Iacoboni, perché ha a che fare con l'uomo delle scorse settimane, l'ex ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti. Occhio, perché ci sono degli spunti molto interessanti. Come forse saprete, Fioramonti insegnava all'Università di Pretoria in Sudafrica, e dall'Università di Pretoria arrivano delle notizie che, insomma, un report su Fioramonti che non promette nulla di buono. Ci sono accuse all'ex ministro per come lavorava nell'Università di Pretoria, fondi e gestione da autocrate, e c'è un audit appunto sull'ex ministro per capire come abbia lavorato effettivamente là dentro, racconta Iacoboni, un autocrate che da direttore del Govin, il centro di ricerca in scienze politiche dell'Università di Pretoria, in partnership con l'Istituto francese di agronomia SIRAD, ha fatto terra bruciata con i direttori degli altri dipartimenti, creato un clima teso con gli altri ricercatori, lasciando in sostanza un disastro da ricostruire. Un professore criticato per le manovre opportunistiche di partito. E tra i suoi ex colleghi c'è anche chi solleva accuse molto gravi contro l'ex direttore: improprietà nella gestione dei fondi, allocazione errata dei fondi per uso personale. E però, attenzione, c'è qualcosa di ancora più interessante all'interno di questo pezzo. Queste sono accuse ovviamente di ex colleghi, un report contro Fioramonti molto pesante, e però di questo si tratta. Il racconto di Iacoboni ci dice ancora altro. La stampa è in possesso di una email del 2 ottobre in cui Maxi Schumann, rappresentante del decano dell'università, annuncia a 13 colleghi, docenti e ricercatori che Fioramonti tornerà entro il 1 maggio 2020 all'Università Sudafricana, e quindi entro il 1 maggio di quest'anno. E il professor Duncan stava negoziando con lui già da ottobre, e quindi 3 mesi prima delle dimissioni di Fioramonti da ministro dell'istruzione. Vedremo che cosa emergerà da questa vicenda, e appunto queste dimissioni di Fioramonti effettivamente come sono arrivate. Sempre per i temi della politica, sta facendo fibrillare un po' il mondo politico questo sondaggio di XE che vede il centrodestra al 50%, ma soprattutto una Giorgia Meloni che, come sembrava circolava già da un po' di tempo, una Giorgia Meloni che supera in gradimento Matteo Salvini come leader, in termini di fiducia ai leader, anche se le percentuali dal punto di vista dei partiti rimangono più o meno stabili, con la Lega intorno al 29,5%, comunque sotto il 30%, il PD al 20%, il Movimento 5 Stelle al 16%, Fratelli d'Italia poco sopra il 10%, però appunto il dato da segnalare lo troviamo a pagina 10 del giornale e anche su altri quotidiani, ci racconta esattamente questo, mentre ci dice, per quanto riguarda le elezioni in Emilia-Romagna, che Stefano Bonaccini è dato tra il 43 e il 47%, la Borgonzoni tra il 41 e il 45%, e Simone Benini del Movimento 5 Stelle tra il 5 e il 9%, ma ovviamente c'è una grande attenzione in queste ore per tutto quello che ha a che fare con le questioni della Libia e dell'Iran. I pezzi, poi arriveremo tra un attimo ai pezzi che troviamo anche all'interno del Sole 24 Ore, nel quale in apertura, come si diceva, si parla esplicitamente di una gaffe del governo con questo invito ad Haftar che ha fatto saltare l'arrivo di al-Sarraj, insomma il premier di Tripoli. Il Fatto Quotidiano ne dà una lettura diversa da altri quotidiani, ed è per questo che lo prendiamo in esame, perché rispetto agli altri sembra ridimensionare la portata di questa gaffe, e parla di una manovra arrivata dalla Francia per cercare di evitare che l'Italia si ritagliasse un ruolo da protagonista. Martedì gli italiani dovevano accompagnare il leader di Tripoli a Bruxelles, però Parigi si è messa in mezzo e ha di fatto bloccato l'aereo, questo nella giornata di martedì. E poi in realtà, insomma, non c'è un ridimensionamento effettivo di quello che è avvenuto ieri, ossia di questo invito ad Haftar, un po' per così dire improvvido in termini di tempi, e che ha portato portato evidentemente Sarraj a rinunciare all'arrivo in Italia, appunto, per l'incontro con Giuseppe Conte. Giuseppe Conte che, come si diceva, rilascia una lunga intervista al Foglio con Claudio Cerasa, il direttore, un premier a tutto campo, è il titolo, perché parla un po' di tutto: la Libia, l'Iran, Trump, il peso dell'Europa e poi l'Ilva, l'Italia, Salvini, la prescrizione, le intercettazioni, la suggestione sul modello Ursula von der Leyen, ossia una coalizione che possa tenere dentro per esempio anche Forza Italia, nel caso valuteremo, dice. Però insomma si sottolinea anche la difficoltà, per così dire, del giornalista, a fattispecie appunto il direttore del Foglio Claudio Cerasa, a tirare fuori a Conte, no? un po' di notizie sostanziali, per quanto il colloquio duri un'ora. Con il Presidente del Consiglio abbiamo provato a parlare a tutto campo, cercando, racconta Cerasa all'inizio dell'intervista, di non perdere il filo del discorso in mezzo ai mille slalom del Premier, ma la nostra conversazione non poteva che partire da qui, non poteva che partire da una domanda secca: ma l'Italia ha scelto o no da che parte stare in Libia? Su questo dossier, dice Conte, vedo da troppo tempo delle rappresentazioni completamente sbagliate. L'Italia fa della coerenza il punto di forza della sua politica internazionale. In sostanza si gira un po' intorno, tanto che Cerasa è costretto per tre volte sostanzialmente a fare la stessa domanda. Vi segnalo dal Corriere della Sera a pagina 6 questo pezzo di Lorenzo Cremonesi che ci riporta ad un elemento invece che ha a che fare con l'Iran e con l'attacco avvenuto nella notte dell'altro ieri, con un elemento che non abbiamo trovato da altre parti. Sono stati Patriot a salvare gli italiani, è il titolo. Sono stati missili antimissile Patriot americani a salvare la zona dell'aeroporto di Erbil, dove stanno le basi di parte della coalizione internazionale. I soldati americani erano l'obiettivo dei missili balistici iraniani, ma anche quelli italiani avrebbero potuto rimanere vittime. Quello che è forse il capitolo più drammatico per gli italiani del racconto relativo all'attacco missilistico iraniano ieri mattina alle 2 contro le basi ci viene spiegato da Raed Abu Ayman, giovane interprete residente a Erbil che in passato ha lavorato con i militari italiani e oggi è impiegato in loco da un'organizzazione umanitaria di Roma. Il racconto appunto lo raccoglie Lorenzo Cremonesi, lo trovate sul Corriere a pagina 6. Infine, prima di andare al traffico, un altro paio di elementi. Il primo è un'altra intervista, il tema è quello di autostrade e l'intervistata è la ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, la quale al quotidiano La Repubblica, Goffredo De Marchis, a pagina 11 dice: la loro offerta non basta per evitare la revoca, devono abbassare i pedaggi. Qua si parla dell'ipotesi che sta circolando in queste ore, che è una proposta, a quanto pare, del Partito Democratico, che prevede una maxi multa per autostrade per evitare appunto la revoca della concessione, un fatto al quale evidentemente il mercato crede, perché ieri le azioni di Atlantia sono salite, lo segnala anche Repubblica qua a pagina 11, del 3,9%. Traffico. Promo 24. Appuntamento al GIC, Giornate Italiane del Calcestruzzo, Italian Concrete Days, l'unica mostra italiana interamente dedicata a macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la demolizione, il ripristino e la riqualificazione delle strutture in cemento armato, con le sue aree tematiche Agretexpo, dedicata al trattamento e al riciclaggio degli inerti, Compavitexpo, dedicata alle pavimentazioni e ai massetti, e Idrexpo, riservata al taglio e alla demolizione del calcestruzzo. Alla terza edizione del GIC è anche previsto un ricco programma di convegni con relatori di fama internazionale. A Piacenza Expo dal 29 al 31 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, gic-expo.it. Ed eccoci, siamo col nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Fabio, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Col nostro consueto appuntamento del giovedì partirei ovviamente dall'attualità internazionale, Fabio, e da quello che sta succedendo sullo scenario libico, particolarmente importante per noi per tutta una serie di motivi, e su due fronti in realtà, insomma i due grandi attori principali, ossia Putin e Erdogan, si sono incontrati ieri e di fatto hanno stabilito una tregua, mentre ieri c'è stato qualche problema, per così dire, per l'Italia. Devo dire una gaffa storica, ancora una volta questo governo ha dimostrato di non essere all'altezza dei fatti. Se c'è un'area al mondo in cui l'Italia ha sempre avuto e potrebbe avere ancora voce in capitolo è la Libia, peraltro determinante per i nostri rifornimenti energetici. Bene, stiamo riuscendo nell'impresa di perdere anche la Libia. L'incontro di ieri tra Putin e Erdogan, noi abbiamo aperto il giornale perché rappresenta un passaggio che potrebbe risultare determinante, e cioè la spartizione della Libia tra, da una parte, la Turchia di Erdogan, dall'altra la Russia di Putin. E a questo punto il ruolo dell'Italia, ripeto, nell'unica area del mondo in cui avrebbe qualcosa da dire, si sfuma e viene perso definitivamente. C'è l'altro fronte internazionale, no? È quello dell'Iran. Ieri e anche oggi mi pare che stiamo, non vorrei fosse troppo presto, stiamo un po' tutti tirando un sospiro di sollievo perché la reazione di Teheran, tutto sommato limitata, ha spinto Trump a spendere parole di pace. Ieri anche i mercati hanno respirato, a dire il vero, no? Per tutto questo. Per la verità io sono poco ottimista, anzi continuo a essere molto preoccupato. Ricordo le parole di Joe Biden, uno dei più illustri esponenti del Partito Democratico americano, a seguito dell'assassinio del generale iraniano. Joe Biden ha detto: l'operazione è stata come gettare un petardo in un deposito di dinamite. Quindi io purtroppo non credo che sia finita così. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Insomma, ripeto, appunto, nel frattempo i mercati respirano, e vi voglio segnalare agli ascoltatori, a proposito di cose che trovate sul Sole 24 Ore, che proprio sul tema dell'Iran a pagina 3 c'è un buon pezzo di Roberto Bongiorni che ci parla di un'economia iraniana che di fatto è già in stato di guerra. Ce ne dà un'idea con le variazioni percentuali del PIL, no? Nell'ultimo periodo si parla di un calo del 4,8% nel 2018, una proiezione di calo del 9% nel 2019, a segnalare che forse in questo momento nemmeno gli iraniani potrebbero gli iraniani non avere un grande interesse, no, Fabio, ad andare ad una guerra in questa fase. Certamente l'Iran è in una situazione di pesante crisi economica che tenderà a peggiorare, e certamente c'è una proporzione di forze in campo tra l'Iran e gli Stati Uniti, è una partita che non si può neanche immaginare di giocare, però non è mai bello mettere qualcuno con le spalle al muro, perché poi le reazioni possono anche essere, possono avere delle conseguenze pesanti, ma io non penso che abbia un senso immaginare una guerra tra Iran e Stati Uniti. Ha un senso invece, ed è questo che mi preoccupa, sì, immaginare un'area del mondo, il Medio Oriente, in fiamme, con una sollevazione di scudi che non è soltanto dell'Iran, ma di tutto il mondo sciita. E questo è un prezzo che l'Occidente potrebbe essere chiamato a pagare. Ascolta, in prima pagina sulle 24 ore abbiamo messo anche queste sei foto di Carlos Ghosn, l'ex amministratore delegato di Nissan Renault, fuggito dal Giappone. Ieri la conferenza stampa nella quale si è difeso a Beirut, e nella quale, insomma, una difesa d'ufficio durata un'ora e un quarto, Fabio, nella quale però non ci ha rivelato la cosa che volevamo sapere tutti, ossia come ha fatto a scappare, se veramente dentro una cassa di una cassa forata o cose di questo genere. Ma alla vicenda abbiamo dedicato uno spazio adeguato, perché è una spy story che intreccia politica, finanza, economia e anche servizi segreti. È chiaro che nessuno può credere al fatto che la fuga dal Giappone del manager Renault sia stata organizzata dalla moglie, ci vuole ben altro, e io penso che bisognerebbe chiedere qualcosa magari ai servizi di sicurezza francesi, che sono sempre molto rapidi in queste situazioni. Certamente è difficile immaginare la moglie di Gosa che organizza una fuga di quel tipo, beffando i giapponesi in modo così, diciamo, artigianale. Non ci credo neanche morto. Sì, piuttosto difficile. Senti, invece si è curiosamente, ne abbiamo parlato anche qua ieri a 24 mattino, perché abbiamo avuto ospite la segretaria della CISL, Anna Maria Furlan, si è curiosamente riaperto il dibattito sull'articolo 18, l'ha fatto un ministro di peso di questo esecutivo, Roberto Speranza, ricevendo uno stop da una parte notevole della coalizione, devo dire anche dalla stessa Furlan, e a questo no dedichiamo anche spazio con un'analisi di Alberto Rioli su questo dibattito, che insomma pare un po' superato. Hai scelto l'avverbio giusto, curiosamente. Beh, io penso che in questo momento di straordinaria conflittualità all'interno del governo di tutto c'era bisogno, fuorché di tirar fuori di nuovo la vicenda dell'articolo 18. Sembra che ci sia una specie di accanimento contro il governo da parte delle stesse forze che ne fanno parte. Non passa giorno senza che se ne inventano una per litigare sempre di più. È difficile immaginare dove in queste condizioni si possa davvero arrivare. Si conferma che ancora una volta l'unico collante, il collante che tiene insieme questa maggioranza di governo, è la paura della vittoria di Salvini e anche senz'altro la volontà di tenersi aggrappati alle poltrone. Grazie al nostro direttore e direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Noi ci fermiamo, c'è GR24 come sempre, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, avremo ospite il vice ministro dell'Interno Matteo Mauri. Beh, dopo tanti incidenti stradali ci occuperemo anche di questo, si parla di nuove norme penali per chi beve alla guida. E poi Franco Frattini, l'ex ministro degli esteri, per parlare. Tutte le vicende sono sul piatto, Iran, Libia e non solo. Dopo, ciao.